aspettando una nuova emozione che mi faccia battere il cuore, ma ora non c'è ragione, mi tuffo nella mia quotidianità, con poche cose la tua presenza è qua.